Perché lo devi stoppare? No, no, fermi, ragazzi. Ah, ok. Fermi voi. Attenzione a te. Frank Darabont. Eh? Frank Darabont. Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo immersi nel pieno centro di Montevarchi alla Galleria San Lorenzo in Via dei Musei, quest'oggi particolarmente popolata di pubblico, incredibilmente. Ci fa sempre molto piacere, salutiamo Alessandro e Francesco, i protagonisti de Il Giro del Mondo in 80 Misteri, una trasmissione sempre prodotta su Radio Big World, ed il nostro committente, sempre presente o quantomeno spesso presente ultimamente. Fumino, invece, davanti a noi chi abbiamo? Chi è l'ospite di questa puntata? Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Big World. L'ospite di questa serata, Julian, è un ospite molto particolare, almeno per me personalmente, perché mi fa ritornare alla memoria una delle giornate più belle della mia vita, una serata più bella della mia vita, per parafrasare un film di Alberto Sordi, anzi con Alberto Sordi. E a proposito che parliamo di film, salutiamo il nostro regista di stasera, che è Frank Darabont, e il nostro ospite, grazie di essere intervenuto ai microfoni di Radio Big World, Manolo Ermini. Buonasera. Bene Manolo, allora iniziamo subito parlando probabilmente di quello a cui si riferiva Fumino, di quella storica partita che molto spesso è ritornata nelle varie interviste e nei vari incontri che abbiamo testimoniato ai microfoni del Volo dell'Aquila. Mi riferisco ovviamente alla partita Montevarchi-San Donà, quella che in un modo o nell'altro è ricordata come la più grande partita di sempre nella storia di Montevarchi. A questo proposito io casualmente quest'oggi leggevo un articolo su internet dove c'era, se non era, una tua intervista, e raccontavi che anni dopo ti sei ritrovato con Paolo Ponzo, che era un tuo collega in campo, e che lui stesso ricordava quella come la sua più grande emozione sportiva di carriera, seppur lui abbia anche calcato palcoscenici importanti. Sì, in effetti è così. Il povero Paolino Ponzo, che era un ragazzo spettacolare, ha giocato in Serie A, ha fatto una carriera veramente strepitosa, e una volta ci siamo trovati tutti insieme con la squadra in un'occasione a Montevarchi. Si parlò un po' delle emozioni del calcio e venne fuori proprio questo discorso, si parlò della partita col San Donà, di tante cose, e gli dissi: ma ascolta me, ma che emozione è esordire in Serie A? Gli dissi: ma no, credimi, ti dico una cosa, ma te la dico al cuore, l'emozione ho provato contro il San Donà, io non c'è esordio in Serie A che tenga. Cioè è stata un'altra cosa, troppo più forte a livello emotivo, al di là che in quel momento è chiaro, esordisci in Serie A, quindi ti senti realizzato come giocatore, però l'emozione è una cosa che non te la inventi, la devi sentire dentro, e quella domenica penso chi c'era, non c'era categoria in quel momento, penso Montevarchino abbia gioito veramente in un modo pazzesco, perché l'emozione sì, era veramente unica, vedevi le facce della gente, veramente erano impazzite, li vedevi emozionati, vedevi la gente che si buttava sul campo, cioè in quel momento lo stadio era una sorta di famiglia, vedevi, non c'era invidia, non c'era, c'era solo la gioia, la voglia di, le facce incredule, la voglia di vivere quel momento, perché ognuno di noi si stava rendendo conto che c'era nell'aria qualcosa da ricordare, ecco. E Manolo, io non so se magari hai ascoltato qualche puntata precedente, sono solito stuzzicare, andare a punzecchiare nelle emozioni e nei ricordi. Bene, era, questo lo dico per gli ascoltatori di Radio Big World che magari non sono di Montevarchi e non conoscono la vicenda, era il 14 maggio del 1995, Montevarchi-San Donà, finisce il primo tempo sullo 0-2, partita decisiva per vincere il campionato, appunto proprio con il San Donà, un testa a testa. E succede l'incredibile durante il secondo tempo, il 2-1 di Menchetti, il 2-2 di Scattini e poi il 3-2, il gol del sorpasso di Manolo Ermini. Allora, cosa ti resta ancora oggi fotografato nella testa di quel gol? Tu cosa hai provato? un'emozione pazzesca, poi stiamo parlando di cose di più di 20 anni fa, però è riparlare di quei momenti credo che emoziona tutt'oggi, perché comunque dietro quella partita c'è veramente, c'è stata da parte di tutti, io ho avuto la fortuna di realizzare quel gol, però c'è stato veramente un grosso lavoro, perché era una squadra e nel quotidiano si allenava a 1000 all'ora. Io ora parlo per me, ma potrei parlare per tutta la squadra. Io mi ricordo in quel periodo forse non mi sono mai arrivato come non mai, cioè ho passato 2 settimane dove veramente cercavo di evitare delle cose, tanto per cercavo di evitare di mangiare il dolcetto in più che mi fa impazzire, cercavo di sacrificarmi, cioè volevo proprio far montare dentro di me una sorta di cattiveria, perché se te ti sacrifichi, un discorso è mentalmente cercare di arrivare, far salire l'adrenalina eccetera, ma un discorso è sacrificarsi realmente, cosa forse ho fatto il giusto nell'arco della mia carriera, però era già da una 15 giorni, e perché noi siamo passati anche dall'inferno di Ponzacco prima di arrivare a San Donato. Quindi diciamo così, me lo preparavo veramente a puntino, questo vuol dire vincere partite, vuol dire però che se ti apri l'occasione sei pronto, cioè devi buttare dentro, devi arrivi lì con cattiveria, con voi. E la gente in quel momento, mi ricordo le facce, mi ricordo gente impazzita, mi ricordo, mi viene in mente Ermanno Tozzi, è una persona spettacolare, con un ombrello, sembrava il primo ultra, mi viene in mente le facce, gente piangeva, io che feci 50 metri di ampo per arrivare sotto la curva sud, fui avvolto proprio da una bolgia di tifosi, a un certo punto ci facevo neanche a respirare, mi ricordo, disse ragazzi fammi respirare che qui schianto. Allora un tifoso, mi ricordo, disse ragazzi via tutti, fu bella questa cosa perché proprio in 2 secondi si allontanarono tutti, cioè la cosa bella di quel momento è che veramente c'era una sorta di quel momento a noi giocatori ci aveva fatto sentire, io penso se in quel momento gli eroi di quel momento erano gli Zidane, cioè io penso in quel momento se c'era Zidane in tribuna neanche nessuno lo guardava, cioè ormai c'era, si era creata una sintonia pubblico squadra meravigliosa, veramente è stato una cosa penso unica, e comunque penso anche sia bello ricordarla, perché se sono ricordi però dai, sono sempre belle cose. Dopo quanto ti sei reso conto di essere entrato alla fine nella storia del Montevarchi con quel gol? Quel momento ti accorgi, sai, hai vinto una partita storica, è chiaro, dovevi realizzare, finire l'opera a Lugo, ma onestamente quella squadra lì era veramente una grande squadra. Allenarsi in quel gruppo lì era... Tanto avevo un allenatore veramente fantastico, perché Braglia in quegli anni riusciva veramente a darti il meglio. Cioè te in quel momento lì era riuscito a entrare in testa in gruppo, perché Piero chiaramente un allenatore lo odio, lo ami, non ci sono le vie di mezzo con Piero. E lui in quel gruppo, in un gruppo in una squadra forte, perché quella credete era una squadra forte, però lui riusciva veramente a darti qualcosa in più, perché era sempre pronto, era sempre pronto per avere la soluzione giusta, pronto se la squadra aveva un calo a cambiare nel momento giusto, a stimolarti, e quindi l'allenatore ci ha dato veramente tanto, era un allenatore che si faceva rispettare, ma oltre che con i ragazzi, parlo anche in generale, perché posso dirvi nella mia esperienza calcistica, tante le volte gli allenatori si vantano di essere, come posso dire, i comandanti dello spogliatoio, di essere, quando arriva un dirigente, loro fanno, dicono, distruggono, poi il primo dirigente arriva dentro, si fanno già piccolini magari, E Braglia quando entra il dirigente nello spogliatoio, dove stava tranquillo perché sapeva che era casa nostra, già era un privilegio entrare lì, quindi doveva rispettare i giocatori e non doveva dire cazzate, si può dire. Quindi diciamo si faceva veramente rispettare, perché sì, l'allenatore allena i giocatori e quindi li segue, ma anche i giocatori studiano, diciamo, l'allenatore. E Braglia, questo oltre al discorso tattico, tecnico, insomma, veramente tirava qualcosa altro, difficilmente riesco a trovare. Sì, quello che ci sta raccontando Manolo ce l'aveva più o meno raccontato anche Bigliazzi quando è venuto ospite in trasmissione. Ci raccontava appunto che quella stagione vincente fu costruita fin dall'inizio, fin dai primi allenamenti, e il capo di questa costruzione, di questo progetto che andò avanti passo dopo passo, era proprio Piero Braglia e la sua, con le sue capacità di conduttore o di conducente, diciamo. Prima ha anche parlato dell'inferno di Ponzacco, e magari avrete avuto chiaramente, come sempre accade anche in quella stagione, momenti cupi, e per questo ti chiedo, visto che Braglia è noto per, e ce l'ho anche confermato te prima, avere un carattere piuttosto burbero, puoi raccontarci in quei momenti più difficili come era l'atteggiamento dell'allenatore verso di voi, se era eccessivamente duro, se invece si ammorbidiva per favorire, non so, magari una vostra risposta o quantomeno per aiutare voi a non perdere l'autostima, insomma, com'era Braglia nelle sconfitte piuttosto che nelle vittorie? Era piuttosto nelle vittorie. Io me lo ricordo a fine partita al San Donato, che entrai nello spogliatoio dopo un'ora quasi di fine gara. Chiaramente si faceva via a tenere una sorta di tranquillità, e lui riusciva a farci incazzata che solo lui ci avrebbe fatto in quel momento lì, e riusciva a dimostrartela. Cioè, io me lo ricordo bene, iniziò già a dire domenica c'è da andare al buco, insomma tutti i suoi discorsi. Io dentro di me disse, facci respirare un attimino, un po' di soddisfazione, secondo braccio. Era un burbero, però personalmente posso di po', perché io Braglia l'ho avuto a partita da San Giovanni, ero ancora un ragazzo, mentalmente più piccolo, diciamo, dell'età che avevo, perché insomma ero abbastanza scapestrato, e lui, niente, come giocatore mi sono sempre piaciuto, riuscì subito a inquadrarmi. Io mi ricordo si fece questa con la San Giovannese, dopo qualche giorno di ritiro, mi ricordo si giocò contro la Primavera e la Fiorentina, un amichevole, c'era la squadra dei Fly, si vinse 1-0, feci gol io e feci veramente una bella partita. Il giorno dopo eravamo in ritiro, nello spogliatoio, in camera, ero il mio compagno. Subito cazzato, mi fa, ascolta, ma te nella vita che vuoi fare? Vuoi giocatore, vuoi fare il modello, te le sue. Però con me ha sempre avuto, cioè onestamente a me mi ha fatto, mi ha dato tanto, anche io dal punto di vista umano mi ha dato veramente tanto. A me bastava poco, mi occupava dello spogliatore, cioè se avevo fatto l'una di notte, mi vedeva subito, appena arrivavo, passa da me, sembrava di essere in confessionale. A tempio c'era il cellulare e lui mi chiamava a casa la sera alle 10, cioè, mi martellava proprio, però mi trasmetteva tanto. Cioè, a me, ora, io sono qui, ma se hai già detto che ha parlato Bigliazzi, ti ha detto una cosa, qui vedrai arriverà altri giocatori e sentirai sempre il solito disco. Perché Braglia era sì un burbero e in dei momenti ti massacrava, però ti sapeva anche da tanto, sapeva leggere i momenti, capito? Era molto psicologo, oltre aveva una lettura domeniale, secondo me, come, ecco, la lettura di Braglia domenica, secondo me, e la personalità cambia la partita, perché a toglierti dal campo dopo mezz'ora ci mette veramente il giusto, te lo dice poi di leva, oppure anda, insomma, qualcosa si inventa. Penso in Serie A, molti se la sogna, ma veramente non sono frasi fatte. Penso poteva fare più della grande carriera ha fatto, ma penso sia stato un po' un mischio. Tu che sei sangiovannese di nascita ci raccontavi però in sede di preparazione della puntata, quindi raccontiamolo anche agli ascoltatori di Radio Big World, della tua esperienza nelle giovanili del Montevarchi, perché comunque ne avevi già passate alcune prima di quel famoso 14 maggio. Parliamo anche di altro, insomma, ecco, facci conoscere qual era stata la tua sensazione nel giocare a Montevarchi in quegli anni lì, in quel momento lì. La cosa particolare di fatto è che io sono sangiovannese, a San Giovanni ho fatto il settore giovanile, come ho fatto a Montevarchi, e da sangiovannese ero un giocatore, insomma, anche ben voluto dal pubblico, veramente ero, sono venuto via da San Giovanni come uno dei giocatori, insomma, io e Paolo Martelli si era veramente visti come giocatori importanti della squadra, e Ori non ce li facevamo mancare, diciamo, il pubblico. Quindi da San Giovanni si poteva capire, veniva a Montevarchi, nel posto tra virgolette rivale, si crea subito una situazione particolare, perché poi anch'io ci misi un po' a ingranare, quindi appena sbaglio un pallone sei San Giovanni e se ti massacrano, si crea una situazione per niente facile, diciamo così. Però ecco, diciamo, la cosa bella è stata forse anche quello, perché forse sei nato, passatemi il termine, però questa sorta di amore spontaneo, forse è ancora più bello, perché io mi sono comprato la curva andando sotto a baciare la maglia, ma questo non perché non volessi bere, figuriamoci, io a Montevarchi sono stato alla grande, però era proprio una cosa mia, che a volte nel video spogliatoio c'è qualche giocatore, si vende facile, passare questo termine, passato. Cioè non ero così. Però è nato veramente, cioè io sentivo, anche l'anno della vittoria del campionato, io sentivo la voglia col tempo, col passare del tempo, con la stima che si sta creando, col pubblico, a me mi aveva sempre un cuore per me, nei momenti di difficoltà cercavano l'appoggio di vari giocatori, tra quei giocatori c'era sempre un cuore nei miei confronti, questo mi faceva capire, cioè mi sentivo una responsabilità importante addosso. Cioè io avevo voglia di fare qualcosa per la città, avevo voglia di dare il meglio per quella città che in quel momento mi stava veramente volendo bene. E quindi ho cercato veramente di per quella curva che pensava sempre a me, che aveva sempre un cuore per me, che nei momenti di difficoltà si ricordava di Manolo, cercavo veramente di fare il meglio per la città, perché veramente avevo voglia di fare qualcosa di importante. Nella mia prima fase, come si diceva prima, mi sono un po' perso, ma è stato bello perché molti non lo sanno, ma io ho vinto anche un altro campionato da apprendista giocatore a tempi di Benvenuto. Io ero un ragazzino di 17 anni, ho collezionato tipo 17 presenze in panchina. E l'anno dopo con Romano Foglio ho fatto anche l'esordio in Coppa Italia, anche se per esordire era un'impresa titanica. Ho avuto la fortuna di stare con tanti giocatori anche in quegli anni. C'erano dei grandissimi giocatori, c'era una squadra fatta di giocatori veramente importanti. Mi ricordo da ragazzino, avevo 17 anni, andavo a panchina a Siena, mi ricordo a Siena un'emozione forte, a Montevarchi si vinse 2-0 a Siena. Con gol di Broci e Cacciatori, mi sembra, ma ragazzi. Anche quell'anno è stata un'esperienza, e poi addirittura dovevo andare a panchina al famoso spareggio di Empoli. Poi recuperò, mi sembra era Tomino, Stito, in forze, e fino all'ultimo, e se no andavo in panchina, sarei stato anche presente in quell'occasione. Quindi per me è un piccolo... Cioè, io a Montevarchi c'ero già stato, c'ero stato bene. Avevo vinto da ragazzino il girone nel torneo Dante Beretti, il titolo di capocannoniere del girone, e sono state due esperienze comunque belle, veramente. E ho avuto la fortuna di giocare in una prima fase con giocatori veramente forti, di qualità, gente che poi ha giocato in Serie A, Serie B, eccetera, e oltre ad essere giocatori forti, qualcuno può toccare, ma qualcuno è stato anche un po' sfortunato perché veramente poteva fare di più. Però siamo rimasti amici, dottor Menchetti, abbiamo figlio di amici, si va al mare insieme, Scattini, ci sentiamo sempre, Di Mel, cioè ho sbagliato a fare questi tre nomi perché devo poter fare di tutta la squadra e non voglio dimenticarmi qualcuno. tutti veramente, siamo rimasti un gruppo meraviglioso e quando ci si ritrova è come se non ci si fosse mai lasciati, veramente, sono quelle alchimie difficili da spiegare, ma si creano delle situazioni particolari. Ti do una stupidaggine, ci fu organizzata qualche anno fa una partita, vecchie glorie, più ci fu messo dentro qualche giocatore della trasmissione Campioni, queste cose qua, uno dei Grande Fratello, cioè fu fatta una squadra dove eravamo 4-5 di noi, più un paio del Grande Fratello, cioè proprio... Si riuscì a pareggiare 0-0 con una squadra nazionale dilettanti, ex giocatori, e non ci faceva gol nel primo tempo, cioè... Ora, si fa per dire, però si vedeva, c'era proprio... Rigiò insieme dopo tanti anni, chiaro, fisicamente non ce la fai più, tante cose, però ti rendi conto che io so che se c'è la sciapalla scattiva, Mecchetti, se te vai, ti arriva nel piede, c'è Arcadio, parte, vai, mettila nello spazio, è andata, cioè un calcio d'angolo, si cerca Scattini, cioè c'è Di Mella, un inserimento, è una squadra, ormai ci sono, c'era alla meraviglia e c'era autostima. C'era autostima, ma anche stima grossissima nei confronti del compagno. Cioè, le frecce del nostro arco erano tante. Faceva gol, bloccava l'arcata del nostro bomber e si poteva trovare una soluzione diversa. Ci sapeva tante soluzioni. Oltre a quelle, poteva aver Piero un panchina ad essere sveglio e di cambiarti la gara. Era quindi una squadra, come dici te, che avrebbe potuto giocare bendata e che ancora oggi probabilmente potrebbe giocare bendata e trovarsi in un certo senso. Eravamo un po' tutti nel piano delle forze. Cioè l'anno seguito di campionato il Livorno davanti c'era Svok nel piano delle forze e l'altra punta era Scideriati, che era uno dell'anno prima, 2 anni prima, stava con la Serie B. Era un po' in fase ante, però c'era Svok. Tuttora le ore di rete in Serie B per capirsi, tanta roba. Quella squadra lì si conosceva a memoria perché intanto era un gruppo di gente genuina. Intanto l'allenatore era stato bravo, intanto se uno veniva a vedere l'allenamento sembrava un miliardino. Cioè se te t'allenavi se te non stavi bene fisicamente, ti allenavi al 60%. E te non la sfiorare, che veramente il gruppo si allenava a miliardore. Avevi dei giocatori anche a livello fisico pazzeschi. Ponzo era pazzesco. Io vi dico una stupidaggine, ma si fa per parlare. Io Ponzo l'avevo visto giocare prima di giocarci insieme. Vedi 2 minuti con una partita di Montevarchi e mi giocava della Sant'Umanese. La vedo a livello esterno, diciamo, no? Tra me e me, momenti da bar, uno può fare, ma onestamente. Dopo un secondo mi c'era allenato insieme e disse accidente, non c'aveva più proprio niente sul Ponzo. Ponzo era fantastico, era impressionante. Soglia della fatica a livelli inimmaginabili. Reattività, esplosività, cioè, era un giocatore, umiltà. A volte dici, John Serie A, anzi ci arrivava tardi, perché questa gente se la merita, Serie A, per come si allena, per come arriva alla partita. Sono quei giocatori di squadra li vuoi sempre, devo sempre alla tua parte, perché averli contro è un problema grosso. Tornando un attimo anche alla questione Montevarchi-San Giovanni, perché comunque te, come ci ha detto, sei san giovannese di nascita, hai giocato a Montevarchi e a San Giovanni, e contemporaneamente ti faccio anche due domande, ti faccio anche un'altra domanda relativa proprio a te come giocatore. Intanto ci hai detto come a Montevarchi ti guardavano al momento che sei arrivato a giocare a Montevarchi da san giovannese, ma a San Giovanni invece come eri visto a casa tua quando, ne so, andavi al bar giocando dall'altra parte? E la seconda domanda ti faccio a ruota, poi magari te mi rispondi, quanto è importante per un giocatore o per il Manolo giocatore, quanto era importante la vicinanza dei tifosi e la spinta che i tifosi danno quando sei in campo, visto che facevi riferimento all'abbraccio che ricevesti dalla curva dopo il famoso gol del 3-2 per San Donato? La curva Montevarchi è veramente tanto ora, non è che devo giocare, uno un passo neanche da quello che si può tirare le cose a proprio a favore. La curva Montevarchi è veramente stupenda, ma non c'è bisogno di dire io, l'ha dimostrato anche, l'ha dimostrato a Bergine, l'ha dimostrato trovare un po' il campo preferito. A Salutio. Salutio lo portano sempre tutti come l'esempio più basso della storia. Penso proprio come Salutio. Pergine, però sì, con rispettissimo ci la questione è che io sapevo dove era Pergine e non sapevo dove era Salutio prima di andare a vedere la partita, per cui esempio è alza. La mamma originaria di quelle parti, no, no, però cioè anche nella domenica, nelle domeniche importanti di quando si inizia il campionato, anche quando si stava un attimino le fasi prima calando fisicamente, cioè hai sempre sentito il supporto della Coppa, cioè la Coppa ti ha sempre incitato fino al 90esimo, durante la gara è sempre stato lì presente, perché il pubblico, cioè le urbe devono essere così. Può venire anche a contestarmi, può venire anche fuori a... però nei 90 minuti il tifoso ti deve, dopo vieni, discutiamo, facciamo le ripare, però nei 90 minuti in quel momento quei giocatori stanno cercando, anche se a volte non ci riescono, a volte meglio, però stanno cercando di fare qualcosa per la città. Quindi si tifa per la squadra, si tifa per la città, poi alla fine ti vengono a cercare, se ne parla, sempre dei limiti. E siccome mi è capitato proprio in quell'anno, in quella stagione magnifica, di essere presente durante la settimana agli allenamenti, perché comunque avevo un'età che mi permetteva il pomeriggio di essere libero, e mi ricordo benissimo che comunque c'era un seguito di tifosi anche agli allenamenti, costantemente, tutti i giorni, o mi sbaglio? Verissimo, verissimo, allenamenti c'era sempre un sacco di gente, si sentiva il calore, ma guarda, veramente c'era... cioè il pubblico Montevarchia veramente c'ha un attaccamento veramente forte alla maglia, ripeto, l'ha dimostrato negli ultimi anni andando in massa in tanti piccoli campi, ma mai vi siete, ci siamo, vi siete buttati giù, cioè c'è sempre stata una sorta, ok, si riparte dalla seconda, via, e rimocchiamoci un altro. Come una famiglia ci sono degli archi, dei bassi, in quel momento c'era un piccolo basso, ripartite alla grande, ora siamo di nuovo categorie importanti. Però c'era gente, c'era seguito e la gente ci faceva sentire veramente giocatori di categorie superiori, cioè sono quelle situazioni dove quando riesci a trascinarti dietro, quando la squadra sputa sangue, quando si va in campo, perché quell'anno si parlava sì di San Donà, ma si è accennato a Ponzacco e ci fecero trovare l'ambiente mi ha da ridere. Ponzacco aveva vinto solo il San Donà. Eravamo là, con il presidente ci fece trovare un gambaletto attaccato al muro degli spogliatoi. Parola del presidente, ve lo posso giurare, ero lì anch'io, perché si arrivò 5-6 primi, si incrociò il presidente, appena si incrociò con questo gambaletto. Vi ricordate all'andata del successo? Poi ci fanno farlo di gioco, la parte di gioco, non lo si infortunò. E questi la misero proprio in casciara, ci danno un ambiente, sputi, si prese di tutto, si prese anche 3 punti e poi si inizia il campionato. Però ci si prese di tutto, successe di tutto, successe un casino quella partita. Però anche lì il pubblico montevarchino veramente fu fantastico. Cioè quell'ambiente mi ricordo, ho delle emozioni forti, ricordo che ci fecero fare il riscaldamento dalla parte opposta, in un campetto adiacente, comunque bisognava passare tra tifosi montevarchini. Cioè io lì veramente mi ricordo con un'adrenalina, penso che era a livelli inimmaginabili. Cioè in quei momenti Tyson ti dà un destro, non lo senti, dopo mezz'ora ti porta all'ospedale, però in quel momento te non lo senti, perché l'adrenalina è a livelli impressionanti. E abbiamo parlato dell'adrenalina e del sostegno che dà la gente di Montevarchi quando va a vedere la partita, quindi ai giocatori. Ma tu hai giocato a Montevarchi in un momento storico molto importante, vale a dire quando alla presidenza del Montevarchi c'erano 2 montevarchini di tutto rispetto, ovviamente mi riferisco a Vasco Farolfi e Alessio Losi. E la loro figura, dal tuo punto di vista, il Manolo giocatore portato a Montevarchi dal direttore sportivo, ma quando sei arrivato ti avranno accolto i presidenti, mi immagino, e poi seguentemente durante quella cavalcata eccezionale di quella vittoria del campionato, la loro presenza quanto è stata importante? La loro presenza è stata fondamentale. Innanzitutto sono state due persone mai ingombranti, sempre rispettosa anche del ruolo dell'allenatore, del ruolo dei giocatori. La verità è che nel calcio, quando fai il professionista, hai bisogno anche, chi per famiglia, chi per donna, in quel momento non stai facendo di lavoro, quindi hai bisogno anche di una società che ogni mese si comporti da società. E loro sinceramente non hanno fatto mancare niente. Quando ti facevano fare il lavoro nel miglior modo possibile, te arrivavi al campo, tutto andava, filava liscio, la presenza non era mai ingombrante. Se provava a essere scherzosamente ingombrante, ci pensava Piero, ci pensava il mister, però mi stavo scherzando. Era gente di una passione pazzesca, perché veramente io lo ricordo l'Osi, Farolfi non lo vidi in quel momento, quindi dirò una bugia, però incrociai lo sguardo di l'Osi a fine gara alzando là, piangeva come un bambino, era uno di quelli che piangeva, cioè vedere una persona, un presidente piangere, penso sia un'emozione per tutta la città, insomma. Mentre invece Manolo, ovviamente dopo quella stagione la tua carriera è andata avanti e brevemente ti chiederei di raccontarcela, e contemporaneamente ti chiedo anche quanto è stata decisiva quell'esperienza lì anche nella tua crescita di giocatore oltre che di uomo. E quella è stata un'esperienza bellissima che ricorderò sempre, è stata importantissima. Solo io ero così, ero un giocatore che si accontentava. Questa è la verità. Vivevo di grandi alti, ma anche di grandi bassi. Cioè, mi accontentavo, magari dopo la prestazione, quando c'è magari da spingere di più, magari mi rilassavo. E quindi io dopo Montevarchi, nell'anno successivo abbiamo fatto la C1, oltretutto facendo un girone d'andata meraviglioso, dove quello può essere, diciamo, quel cruccio di ha vissuto gli anni, perché si poteva regalare un altro sogno alla città e per noi. Quello poteva essere l'anno dove si poteva regalare qualcosa di diverso. Invece è finita in un modo non piacevole, perché sono stati fatti gli errori, perché comunque la presenza di uno come Farolfi, del presidente come Farolfi, era importante per mille equilibri, e dopo sono venuti un po' a mancare. Da lì io sono deciso di andare con Piero, nonostante mi stava chiesto il rinnovo a Montevarchi, ma non per Montevarchi, ma perché mi aveva dato talmente tanto Piero e non aveva detto di no. Chiaro, se le cose finivano in un altro modo, magari Piero andava in un altro posto e magari potevo anche fare un altro tipo magari di carriera in quegli anni. Mi sono levato in soddisfazione, perché comunque analizzo, ho vinto già dalla promozione in C, ho vinto in tutti i campionati, ho vinto lo scudetto facendo il 90esimo contro l'Aglianese di Allegri, era la sua ultima partita da giocatore, senza rigore. Mi sono levato le soddisfazioni da giocatore, diciamo così, di Serie C, cioè che ha fatto una carriera non eclatante come chiaramente potrebbe essere quella di giocatore di Serie A o di Serie B, però bisogna riconoscere ognuno ha i suoi pregi e i suoi difetti. Io, nel pregio, magari ero molto forte in uno contro uno, avevo forza, ero in coscienza, però ero anche molto lunatico, ero anche molto, mi accontentavo, e sicuramente ne ho fatto e la carriera giusta, insomma. In degli anni meritavo di più e negli anni forse anche qualcosa. Tornando appunto un attimo sull'importanza che ha a Montevarchi il tifo per i calciatori, per le persone che stanno giocando in quel momento con i colori della città, quanto sarebbe importante secondo te se questo attaccamento dei tifosi rossoblù fosse ancora più vicino al campo da gioco? Sì, bella domanda. No, è un altro mondo. Riuscire a creare un ambiente dove togli la vista, questo con tutto il rispetto per chi fa atletica, magari riuscire a trovare una soluzione diversa, questo non lo so. Però gli stadi, i veri stadi sono concepiti per il calcio. Iniziamo a far sentire, io mi immagino una curva, sentirla lì a 5 metri da te, invece a 15-20, veramente ti trascinerebbe in maniera diversa. Chiaro che ci vogliono poi sempre anche i giocatori giusti, perché ci vogliono anche i giocatori giusti, perché comunque avere il pubblico lì ti crea anche più pressione. Quindi devi avere anche i giocatori con la personalità giusta che si facciano trascinare dal pubblico, che lo sentano, lo devono amare, cioè devono sentire proprio dentro il fuoco che ti trasmette il pubblico, glielo devi riportare, devi dire sì, bene, voi mi date tanto e io ve lo rimetto in campo. Ecco, devono avere questo pensiero, oddio, che succede? Cioè, adesso è un piacere andare a campo con quella maglia, tirare fuori le tue qualità, rischiare una giocata, sbagliare, prendere due insulti. Calcio è questo. E mi auguro che queste sagge parole di Manolo Ermini arrivino alle orecchie dei calciatori di oggi e anche a quelli che ci saranno domani, perché Montevarchi è questa. Manolo, ci raccontavano Montevarchi di più di 20 anni fa e ancora oggi è così, quindi Montevarchi non cambia, hanno da adeguarsi quelli che vengono a giocarci. Tra l'altro siamo praticamente addirittura d'arrivo in fase di conclusione della nostra puntata. Io, Manolo, ti farei un'ultima domanda che è un po' un must per gli ex giocatori che abbiamo fatto più o meno a tutti, e riguarda la scaramanzia, perché la questione dei riti scaramantici nel pre-partita decisiva è una cosa piuttosto attuale. Se ne è parlato con Bencini, ad esempio, che ci raccontava anche dei riti che faceva Sarri e che evidentemente fa ancora oggi prima di una partita a Napoli da allenatore. E il Manolo Ermini giocatore aveva dei gesti scaramantici o rituali bene auguranti prima delle gare importanti? Allora, non ero un grande, cioè io ci credevo giusto, questo io facevo il mio, però un po' di scaramanzia il giocatore, chi ci vede più chi meno, però c'hai anche una sorta di idea tutta tua. Più che altro vi racconto un piccolo particolare. Martelli era impressionante, Martelli era quasi odioso, perché comunque in pre-partita forse è il momento più bello, forse è più bello anche della gara, perché te in quel momento monti su emozioni, monti su adrenalina, quindi aspettative a volte ci sono o meno. Però Martelli aveva questo vizio che fino a pochi minuti prima di entrare per fare il riscaldamento, lui rideva, scherzava, ti stressava, proprio che magari avevi bisogno di stare per conto tuo, in un angolo lui invece aveva questo atteggiamento. Poi di punto in bianco si metteva l'asciugamano in testa e non voleva essere più considerato. Cioè, decidiamoci. Io avevo una semplicissima, avevo questo vizio, mi garbava prima legarmi la scarpa destra. Addirittura a volte scherzando, quando mi sentivo particolarmente bene, se ero il compagno accanto, cioè avevo una certa confidenza, dicevo oggi faccio gol, oppure oggi mi fa gol la scarpina. Cioè, stupidaggini, forse anche per stemperare in quel momento le tensioni, però ecco, sono sempre stato abbastanza tranquillo sotto questo punto di vista. Benissimo, Manolo, noi ti ringraziamo tantissimo per i racconti, anche perché comunque ci hai fatto rivivere veramente in maniera approfondita stavolta quella mitica partita. Probabilmente ci sarà modo di riparlarne, però diciamo che la fotografia anche emozionale che ci hai dato è abbastanza unica, e quindi per questo ti ringrazio ulteriormente. Se posso dire, quando il piave non mormorò. Vi ringrazio a voi, mi fa piacere, perché insomma è stato veramente un bel momento. Quella partita, quelle emozioni sono state belle per noi giocatori, ma hanno interessato tutta la città. Ebbene, la città ogni tanto riviva momenti belli, visto oggigiorno sono talmente tante le situazioni di stress, quindi ogni tanto un po' di amarcordi fa sempre. Bene, grazie anche da parte mia, Manolo, grazie di averci fatto rivivere a noi qui presenti e a tutti gli ascoltatori di Radio Big World che ascolteranno questa registrazione, quei momenti favolosi. Grazie al nostro regista Frank de Lafayette, non mi ricordo più. Un nome francese a caso. Un nome francese, Frank Camembert. Frank Dudemont. E grazie anche agli ascoltatori di Radio Big World, al pubblico presente in studio questa sera, ovvero Francesco e Alessandro del Giro del Mondo in 80 Misteri e il committente. Grazie a Stefano Neri che ci concede l'utilizzo della stanza Galleria San Lorenzo in piano centro storico di Montevarchi. Sempre sia benedetto e lodato. Alla prossima puntata. Yeah. no, non mi ricordo di nulla, dice no, se me ne scordo anche subito. Perché gli hanno sospeso la ricerca, perché dice insieme. Ho visto, infatti ho tirato una raffia di bestemmie. No. Appena l'ho letto. Dice allora, so che mi tocca a me. Facciamo la avola di morì tutta. Io San Giovannese Montevarchi, ti puoi immaginare, immaginati nel periodo in cui ancora avevo un po' da ingranare a Montevarchi, dovevo tornare a San Giovanni, che comunque aveva sempre la battuta pronta, giustamente, perché vista dagli occhi del San Giovannese capisco perfettamente, quindi mi trovavo in mezzo a due fuori. E comunque tu potevi tornare a piedi, oppure mi ci faceva tornare. T'avresti inaugurato una cosa e poi è diventata regola quasi. Quando qualcuno a San Giovanni gli verrà l'idea di fare il ruggito del Marzocco o il ruggito del Leone, viene da noi, non gli si insegna.